forse c'è Antonello anche. Ciao, otto e qualcosa, aspetta che mi squilla il telefono, scusate, avanti che è entrato. Chi è? Dieci? Dieci? Dieci, dieci, dieci? Qualcuno su dieci? Ok, ok, vediamo, vediamo se sto uscendo. Sì, ci sto uscendo, senza nessun problema. Non ti sto sentendo nulla. Ma non mi senti, non è possibile, ui. Malissimo, malissimo, malissimo. Guarda adesso che sto parlando piano. Vediamo, ecco, questa è... Allora, l'accordatore da palo è adesso sto uscendo, però non riesco a capire. Allora, io ti sento abbastanza bene, e ti devo sempre qualche volta per vedere se non c'ho il microfono troppo alto, però non lo voglio toccare perché mi sembra a posto. Non è che c'è qualche filtro chiuso, aperto, troppo chiuso. No, è 10K, però ti sento meglio in banda laterale che in AM. Oh, aspetta, c'è qualcuno sul canale 10? Sì, intanto. Chi è? Ciao Marco, ascolta, guarda come sto uscendo, secondo te sto uscendo male? Sì, al limite, è abbastanza strappatella la modulazione, Fabri. E io vedo al telefono, c'era Daniele, poi ho sentito qualcuno che aveva breccato, premuto, eccetera. Il segnale, vabbè, fondo scala, inutile dirtelo, però la modulazione è troppo amplificata. Guarda, ho abbassato leggermente il mic gain, 1, 2, 3, prova. Siamo sempre lì, Fabri. Guarda, mezzo millimetro in meno dovrebbe abbassare, poco a poco, prova a abbassare appena appena. Ho abbassato un altro po', ho abbassato 1, 2, 3, prova, 1, 2, 3, prova. Ecco, così adesso è meno strappata, si riconosce anche meglio la tua voce, eccetera. Chi è l'altro amico? Avanti. No, vi sto sentendo, a te sto sentendo meglio, Fabrizio, cavolo, non riesco proprio a sentirlo. Addirittura non riuscivi a copiarlo, Buonasera, Marco da questa parte. Eia. Sì, ha migliorato, poi dipende anche da come piace uscire, più amplificato o meno amplificato. Io vabbè, adesso ho la manetta, ma spero che non distorca. Cavolo, vediamo un attimino, provo a diminuirvi in ricezione. Aspetta un attimino, adesso Marco, com'è? Poco amplificata la radio? No, già amplificata, Fabri. Guarda, rispetto all'altra persona sei molto sparato. Ma chi è Salvatore? Sì, Salvatore, l'importante è che mi ascolti, che vada bene la mia radio, che non sta attrappando adesso. No, capibile, bella amplificata, si sente un po' l'effetto stanza, magari anche qua, chi lo sa. Prova con Daniele, ma lo sai, l'ho copiata, Daniele a Ittiri, e qua arriva Santiago Otto. Vai Daniele per Fabrizio. Sì Daniele, ti ascolto, vediamo un pochettino, mi avvicino al microfono così magari faccio meno effetto stanza. Vediamo invece se Salvatore mi ascolti ancora troppo forte, se no metto cambio radio veloce, aspetta che cambio. Non so che radio stia utilizzando. Vabbè, vediamo, dai. Salvatore, avanti. Cavolo, siete troppo amplificati. l'audio è troppo forte, non riesco a sentirlo, non riesco a capire nulla. Certo, sei tu che dovresti giocare con i filtri su quella radio. Aspetta, io cambio radio, dai, metto una radio, prendo un baracchino velocemente, cioè hai già attaccato commuta, aspetta. Io ho abbassato, ho messo il microfono a metà, dovrebbe essere un po' più vivibile, dai. E vedi, va già molto meglio. Vediamo ora Italia Sardegna, ma salvato, abituato, va bene. Fabrizio da questa parte, guarda un attimino come sto uscendo, adesso sto uscendo col mio baracchino modificato. Io preferisco questa, sembra più la voce naturale, o Fabrizio. Ti aveva contattato Daniele da Itiri, ti aveva chiesto un segnale, un rapporto di segnale, ma lo copi? Sì, che l'ascolto, te lo do, adesso sto usando un Alan 48, quello che avevo modificato, tutto quanto era spento da parecchio, vedo che funziona ancora, vieni avanti. Allora, la radio è ottima, segnale 7-8. Ah, questo è un Alan 48 modificato, quello da camionari, con la scheda ecco, tutte le chimichiate che ci mettevano dentro, dai. Salvato, come mi senti? Meglio con questa radio? Aspetta, provo ad andare qui nel dipolo dei 40. Prova a fare un battaglio, Fabri. Allora, questa è una radio normale, questa è una radio umana, più o meno, dai. Ma mi sembra strano, sei tu con i filtri che devi giocare con quella radio, poco centro del dipolo, Salvato. È che lei deve levare il noise blanker, NLNB, perché quello col K, per esempio, a me mi falsava tutte le modulazioni. Se c'erano modulazioni molto espanse, me le rovinava tutte. E quindi lo toglievo, il noise blanker NLNB da togliere, almeno quello. Ma che radio è? 7.800. Ma non saprei, io lo copio bene. Poi fabbrico l'altra modulazione, a parte che era un bel po' sparata, era un po' nasina, ti sentivo più con la mole piena, così. Questa è un po' più naturale, poi le mie orecchie, io sto usando un volgare baracchino, ripeto, un 3.900, quindi... Aspetta, allora io è un po' che non li uso, allora vabbè, quello è il K ovviamente, è quello che uso io, sempre acceso in 27, poi questo invece è quell'Alan 48 che c'ha qualsiasi modifica possibile e immaginabile, gliel'avevo messa dentro qua, e quindi non lo uso ovviamente, però non l'avevo fatta. Aspetta che provo, che c'è il Galaxy anche, vediamo se funziona ancora, che tanto basta che commuta, aspetta, vediamo se c'è la batteria sotto, sì, ci dovrebbe essere, aspetta. Eia, ok. Vabbè, Salvato, comunque io sono copiabile, se no dimmi se devo abbassare ancora la modulazione. Io di solito uso il mic normale della tutta, e oggi è un'eccezione. Allora, questo invece è il flutto, questo è il flutto, vediamo come va, che era almeno, era un abito che non accendevo, vediamo se funziona ancora col Super Sideric, col Turner Super Sideric. Vedi, con questa ti sento perfettamente. Allora, qui è velata, in confronto è velata, rispetto alla modulazione aperta di prima. Velata sembra quasi limitata, come se ci fosse un limitatore, Fabrizio. Perché è salvato, qui bisogna avere i filtri di quella radio, non è fatta per quello, appunto. Poi, Fabri, è come ascoltarti, è come che tu ascoltassi una canzone stereo e poi la metti a mono, è come più bassa, molto... muffled potremmo dire anche, non so se è adeguato il termine, però è come molto limitata. Aspetta, provo a aumentare un po' il mic gain di questo, ho aumentato un po' il mic gain, come sembra che abbia migliorato. Allora, ha migliorato come volume, però la qualità della modulazione è un po' lascia desiderare. Gira era meglio il 3.900, all'orecchio così, orecchio terra a terra, non ho molto... l'orecchio da direttore d'orchestra, a farla breve. Adesso solo va con quel mini, questo è il Pluto, il Galaxy Pluto con Turner Super Sidericchio. Questa o meglio, può darti il salvato, questa è più, un po' più selettiva probabilmente delle altre. Il 48 si è sparato, l'altro è Bucnoso, questa comunque il Super Sideric con lo Pluto, una cosa l'ho riparato tempo fa e sta ancora andando. Non sapevo nemmeno se accendeva. È ricca di toni bassi, rispetto al 3009 è ricca di toni bassi. Prova in distanza, vediamo come Daniele ti ascolta, lui ha il K. Oh Daniele, come mi ascolti con questa? Marco 6, fate rivoluzione. Guarda, adesso ho aumentato un po' il Mickey Gain, va meglio in queste condizioni? Guarda, non faccio un altro po' così, perché lo dobbiamo andare anche meglio. Qua è troppo. E poi c'è come una specie di lieve saturazione. Non so se sia la vicinanza oppure... Anche la vicinanza. Questo è... Daniele così mi dovrebbe ascoltare abbastanza bene. E tu Salvatore mi ascolti sempre bene, sì. Adesso non so, magari più chiusa, non so perché sarà. Peraltro io ero attaccato, non me ne ero accorto, ero attaccato da ieri, aspetta che faccio la prova. Ho abbassato il microfono amplificato, credo che adesso sia a livelli di mic normale. Sto parlando normale, di taglio al mic, di tre quarti al mic. Comunque Fabri, diciamo sì, è abbastanza forte, capibile, però non è cristallina come modulazione. Che paragone ti posso fare? Non è come... non è proprio cristallina, come certi microfoni tipo lo Shure o l'Echo Master, è presente, no? Con una durazione proprio eccezionale, ecco, non è così. No, io capito, vabbè, adesso non voglio mettere altro microfono normale, che ce lo dovrei avere per fare la prova, quello del Galaxy. E va bene. Io sono sia in ascolto qua, però metto anche la metto in tappa perché qui viene male, dobbiamo spostare. E poi niente, sono là a 5.25 e sto guardando devo monticellare quella radio per farla accendere, quella che ho recuperato l'altro giorno. E volevo vedere un po' se andava, poi stavo pensando di prendere la correttore da palo per le attivazioni, lo vediamo adesso che ci sentiamo là. Io sto cambiando radio, Ok. Io sto andando con l'accordatore da palo adesso. Prova Marco, fai un passaggio. Eccomi qua, guardalo. Aspetta, mi innesca, ecco, allora l'ho abbassato a un quarto il mic. Se vuoi si può abbassare ancora, sto parlando con una voce anche abbastanza bassina, Non parlo mai forte. Ho staccato anche il lineare, quindi sono liscio. Tu hai una modulazione buona, non amplificata ma buona. Cavolo, ti sto attenuando a 18 decibel, però è troppo forte, troppo forte. Troppo forte. Ma tu in che zona sei qua di Sassari? Via del Trento. Guarda, l'ho abbassato ancora. Aspetta, 1, 2, 3. Ecco, l'ho abbassato ancora. Non vedo nemmeno i picchi quasi di modulazione. Così dovrebbe andare bene comunque. Va già molto meglio. Beh, già molto meglio, attenuato di 18 decibel, 6,9 più 10. Io sono qui ai Cappuccini, per cui siamo troppo vicini forse. Magari anche quello. Sì, sì, già lo so, da una volta entravi in 27 anni fa, e poi risparito, dai. Vediamo se Daniele mi copia con 4 watt. Daniele, mi copi che liscio, nudo e crudo, vediamo. Ehi Marco, forse è chiaro qua. Guarda come gira questa. 8 pieno, quasi 8 e mezzo. Modulazione abbastanza limpida. Guarda, guarda, è l'attivare la coppia. Massimiliano, no? Fabrizio vuoi dire? No, Fabrizio. Sì, che ti copio, no, sempre 7, anche col K7. Va bene. Ascolta, per curiosità, Daniele, ma poi a loro eri riuscito a arrivare più forte alzando l'antenna o spostandola o come era finita? Perché all'epoca, appena l'avevi messa, eri qua, arrivavi più forte che da tutti gli altri, stranamente, probabilmente sei favorevole per me. E poi avevi fatto delle prove. Io ho sentito Gain Master, quando avevi messo quella io ti avevo sentito, prima non saprei. No, è sempre lì, non ho fatto niente, anzi, ho sollevato un altro polo, va bene. Signore, io stacco, devo staccare che devo fare caffè e quant'altro, dai. Quindi ciao Daniele, Salvatore, Fabrizio e tutti gli ascoltoni, sentiamo. Vai Fabrizio. Sì, anche io, dai, vi saluto, rimango qua un po' in ascolto, però poi sono anche dall'altra parte, Salvatore, niente, provo a alimentare quella radio. Stavo andando allo schermo perché ci sono 4 poli e uno è cortocircuitato e voglio vedere se riesco a vedere come va. Vediamo un attimino, Salvatore, sono là, dai, faccio in QRX. Ciao Marco, ciao Daniele, dai, ci risentiamo. Comunque mi interessava sapere, riuscire a capire se con questo filo e l'accordatore remotato stavo riuscendo ad uscire. Va bene, i problemi ce li ho in ricezione, ma comunque va bene, comunque lo stesso, dai, grazie, buon proseguimento. Ciao Daniele, se mi senti. Ciao Marco. Fabri, mi sposto a 525.